Ad alta voce. Marco Foschi legge La Gloria di Giuseppe Berto. Ma era incantamento, non fede. E rimaneva tutta una sfera di cose poco chiare, nelle quali sentivo che ambiguamente tentavi di coinvolgerci. Anche a me, che incantato, non facevo resistenza, per uno scopo che aveva ancora troppi margini di mistero. Un giorno, proprio nella sinagoga a Cafarnao, cominciasti a insegnare. In verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo resusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è cibo vero e il mio sangue è bevanda vera. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Chi poteva capirti? Ma io insieme deliravo nell'ardore che tu dimorassi in me e io in te, qualsiasi cosa questo potesse significare. Gli altri, tuttavia, restavano lontani. Si guardavano perplessi, si ponevano domande, mormoravano. Tu preferisti ignorarli e... Per me solo? Continuasti. Inviato dal Padre che ha vita, io vivo grazie al Padre. Così anche chi si ciba di me vivrà grazie a me. Questo è il pane sceso dal cielo, non quello che hanno mangiato i vostri padri che sono morti. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Continuavo ad ardere della tua grandezza, ma gli altri mormoravano sempre più forte. Molti dicevano che era un discorso inaccettabile, che non si poteva stare ad ascoltare un simile vaneggiamento, finché tu non potesti ulteriormente ignorare il loro dissenso e dicesti, ma non con collera, con moderazione piuttosto, e sconforto. Questo vi sembra assurdo? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? E lo spirito che vivifica la carne non serve a nulla. Le parole che ho detto sono spirito e sono vita. Vivificato dallo spirito, bevevo le tue parole man mano che le pronunciavi, finché concludesti. Ma tra voi ci sono alcuni che non credono. La mia esaltazione cessò di colpo. Io non credevo, infatti. Nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre, dicevi. E a me il Signore non dava segni ancora. Per altre vie dovevo venire a te. Però non me ne andai quando quelli che non credevano se ne andarono. Ci contasti i rimasti. Eravamo in 12. E quasi a sfida, ma sicuramente volendo sottolineare che stare con te richiedeva un'incessante resa, ci apostrofasti: «Volete forse andarvene anche voi?» «Per tutti, al solito, prontamente», rispose Pietro. «E da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e sappiamo che tu sei il Santo di Dio». Fissati gli occhi su Pietro per farti certo della sua sincerità, poi ci fissasti ad uno, noi altri 11, per vedere se la professione era valida per tutti. Su nessuno ti fermasti in modo particolare, su nessuno avesti perplessità o trasalimenti. Dicesti che andava bene, ma poi, abbassato a terra lo sguardo, cioè senza guardare né me né alcun altro, preso da improvvisa malinconia, aggiungesti che tra noi 12 c'era un diavolo. Nessuno se l'aspettava. Nei momenti d'ira era facile dare del diavolo a qualcuno, ma presentemente non eri irato, solo molto triste. La denuncia pesava intollerabile su ciascuno, poiché ciascuno, di fronte alla tua esigenza, aveva le sue manchevolezze. Stavamo paurosi di guardarci e di guardarti. Nessuno voleva tenersi l'accusa, ma nemmeno riversarla su di un altro. Solo Giovanni lo fece. Quando, molti anni dopo, scrisse questa storia, commentò: «Alludeva a Giuda, figlio di Simone. Egli, infatti, stava per tradirlo ed era uno dei 12». È vero, ero uno dei 12 e stavo per tradirti. Ma che poteva saperne in quel momento, Giovanni? Che poteva saperne della nostra unità e complicità? Mi odiava. Eppure dei 4 che raccontarono la tua vita, lui fu il solo che disse la verità a proposito del tradimento. Restammo in 12 a seguirti. Io sempre più al margine e sospettato, e tuttavia sorretto dall'attesa del mio momento. Ricominciammo da capo. Andavamo per i villaggi della Galilea, ci spingevamo oltre la Samaria verso la Giudea, con prudenza, pronti a scappare in caso di pericolo, conquistando facilmente nuovi proseliti. Le folle accorrevano a te per ascoltare la tua parola e tu splendidamente parlavi, incantando. Beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché odono. Nessuno prima di voi ha visto ciò che voi vedete, ascoltato ciò che voi ascoltate. Compivi anche molti prodigi, talvolta con liberalità, altra volta con ritrosia, mai trascurando l'effetto che avrebbe avuto sulla massa. La causa non si doveva dimenticare. Io però continuavo a restare perplesso. Nel continuo superamento dei limiti, ogni giorno più vasto ci additavi il valore della tua venuta, che importanza potevano avere quei prodigi che anche altri, non si sapeva come, compivano in abbondanza. Demoni cacciati a torme, una volta ne trasferisti un'intera legione in un branco di porci che poi si precipitarono nel lago annegando. Storpi e rattrappiti di colpo raddrizzati, ciechi e sordomuti guariti e perfino una donna col flusso. Potevano essere queste le manifestazioni della potenza? Ma forse non tanto alla potenza si doveva badare, quanto al potere. I dottori che dicevano che tu operavi in combutta con Beelzebub, anche di tanti altri lo dicevano, non mettevano in discussione il tuo potere. Ed uno era tentato di pensare che il tuo potere proveniva dal maligno, invece che dall'Altissimo. Ciò non faceva molta differenza, purché servisse a liberarci dai nostri nemici. Però era pensabile che proprio il maligno operasse per la salvezza del popolo di Dio. Non era più ragionevole supporre che il potere stesse in te, nella tua volontà e personalità e intelligenza, e magari furbizia. Spesso i tuoi prodigi sapevano di trucco, di complicità, ma non avevo motivi di scandalizzarmene o di contestarli, se poi servivano a conquistare le masse al regno imminente. La tua parola incantava, lo sguardo sottometteva, il gesto obbligava. Folle che erano digiune dal giorno prima si sentivano d'un tratto sazie, e si spargeva la voce che, avendo solo pochi pani e pochi pesci, avevi sfamato innumerevoli moltitudini. A gente che stava bevendo dell'acqua, magari poco pulita, veniva l'impressione che stavano bevendo ottimo vino. E si spargeva la voce che ad un banchetto di nozze avevi tramutato in vino 500 litri d'acqua. Tutto questo poteva anche andar bene. Serviva alla causa. L'ora viene, ed è questa, predicavi. E se per convincere il popolo compivi anche meravigliosi prodigi che ai dubbiosi lasciavano qualche sospetto sulla loro autenticità, non doveva essere motivo di sdegno o ripulsa. Forse un giorno l'Eterno si sarebbe rivelato anche attraverso ciò e avremmo capito, ma frattanto mi trovavo spesso amaro e tormentato e avevo per amica l'oscurità. Dall'oscurità nascevano sempre nuove domande. I demoni trasferiti nei porci non avevano causato la morte dei porci e un danno al loro padrone e forse anche ai loro custodi? E come si poteva maledire e seccare un fico che non aveva fichi in una stagione che non era quella dei fichi? Un giorno incontrammo un cieco nato e ti chiesero: «Rabbi, perché costui nascesse cieco, chi ha peccato, lui o i suoi genitori?» Rispondesti che non avevano peccato né lui né i suoi genitori, ma che era necessario si manifestassero in lui le opere di Dio. Poi gli donasti la vista per mostrare la potenza del Signore. Ma la potenza del Signore non si sarebbe potuta manifestare meglio non facendo nascere ciechi nati? All'origine dei prodigi c'era sempre il male. Ma perché il male? Una resurrezione deve essere preceduta da morte. La resurrezione di Lazzaro servì per mostrare la potenza di Dio sopra la morte e il dolore di quelli che se ne addoloravano. Ma gli infiniti altri morti, ai quali nessuno diceva «risorgi?» Troppe domande. E l'Eterno non rispondeva. Né trovavo risposte dentro di me, né potevo chiederle a te. Non sarei stato capace di sopportare la tua collera. Eri dolorosamente ingiusto, Gesù. Non si poteva venire a te se non era dato dal Padre, e sapevi che a me il Padre non avrebbe dato di raggiungerti, che non avrei mangiato la tua carne né bevuto il tuo sangue se non in amoroso delirio. Sapevi anche che non credevo. Ero forse un demonio in mezzo a voi. Eppure mi tenevi soggiogato, mi facevi intendere che dovevo essere pronto ad altro. Il tuo battesimo d'acqua, dicevi, non era stata che la premessa d'un altro battesimo. Quanto vincolante la tua insistenza nella morte. Paolo poi scrisse: «Ignorate voi forse che tutti noi battezzati in Cristo siamo stati battezzati nella sua morte?» La morte fu il segno che l'Eterno Adonai Tsebaot tentò di darci attraverso te in una dimensione universale. Molti secoli dopo, un ebreo austriaco, anche lui predicatore d'una nuova novella, spiegò che il delirio di grandezza porta alla negazione di tutto, alla soluzione finale. Tu la salvezza la concepivi come gloria, e la gloria è la realtà della fine dei tempi, l'immensità del tutto finito, entrare in Dio per sempre e per tutti. Il mistero di questo mi sfiorava quando nebulosamente parlavi di carne e di sangue e di vita eterna. Sentivo che tu miravi più in alto di quel che dicevano le tue parole terrene, ma non sapevo come seguirti. Potevo soltanto offrirti vita e morte quando l'avessi chiesto. Il regno si avvicinava come tu predicavi e io nella mia oscurità impazientemente attendevo il tempo in cui il male non sarebbe più stato necessario per rendere manifeste le opere di Dio. Pareva che il Rabbi, qualunque cosa avesse in animo di preparare, le stesse preparando confusamente, senza idee coerenti, quantomeno senza un programma stabile. Si spostava da un luogo all'altro, talvolta a capriccio. Si attirava le folle per poi respingerle. Faceva capire e più spesso non capire. Parlava del regno come di una realtà che tutti potevano avere davanti agli occhi, addirittura toccare, Il regno è già in atto, talvolta dicevi, ma non era facile avvedersene. E il giorno dopo questo regno diventava qualcosa che trascendeva i confini della storia e della comprensione. La nostra mente non riusciva a farsene un'idea. S'era scelto per collaboratori più fidati e vicini, persone da poco. Dei 12, se si escludeva Giovanni e me, chi aveva una personalità? Erano ignoranti, impacciati, pettegoli, incostanti, invidiosi l'uno dell'altro, ma anche Giovanni di me e io di lui questionavano tra loro per vedere chi fosse il maggiore, a chi spettasse nel regno il posto alla destra. Si spaventavano facilmente non solo per l'atteggiamento ostile di dottori e farisei, o perché correva voce che in giro ci fossero soldati di Erode, ma anche per certi imprevedibili prodigi od oscure previsioni del Rabbi. Tuttavia, a poco, con l'insegnamento, la persuasione, le invettive, le minacce, arrivava a dirozzarli e modificarli. Faceva nascere in loro, in noi, il convincimento, la speranza, il sospetto che fossimo dei privilegiati destinati ad alti compiti e ad altissime ricompense. A voi ho dato di conoscere i segreti del cielo, agli altri no, diceva. E benché nessuno di loro avesse idea dei segreti del cielo, erano contenti lo stesso di quel privilegio. Io invece, studiandoli anche sotto altri aspetti, mi sentivo sconfortato. Da loro, nel migliore dei casi, potevano uscire dei martiri o piuttosto delle vittime, mai dei condottieri. Non uno che avesse il braccio così dritto come i soldati di Roma, nell'animo così fiero. Condottieri, peraltro, ne avremmo trovati a sufficienza. Non c'era zelota che non si ritenesse un capo in cuor suo, quando il popolo si fosse mosso, ma bisognava che si muovesse. E il solo uomo in Israele capace di far muovere il popolo era lui. Se glielo avesse ordinato, le folle lo avrebbero seguito, senza preparazione né coscienza politica, ma pronte a fare tutto ciò che egli avesse ordinato. Aveva questo potere, ed erano in molti a saperlo. Da Gerusalemme, coloro che insieme ai romani detenevano il potere continuamente mandavano intellettuali, farisei e spie a vedere quel che succedeva, e anche Erode Antipa, il tetrarca che col beneplacito di Cesare aveva giurisdizione sulla Galilea, voleva essere informato di tutto, e superstizioso com'era, era molto impressionato dai prodigi che il Rabbi compiva sugli indemoniati, e più ancora dalla voce corrente che egli fosse il battezzatore risorto. Si diceva il tetrarca: dai morti non risorge nessuno, almeno fino all'ultimo giorno, e il battezzatore è morto. Ho ben visto io la sua testa sul piatto. Ma allora chi può essere questo mio suddito di cui mi giungono notizie tanto straordinarie? E cercava il modo di vederlo. Tutti noi sapevamo quanto fosse rischioso farsi vedere da un monarca che, con un po' di dispiacere e tanta disinvoltura, tagliava la testa ai profeti. Il nostro movimento si basava esclusivamente sul potere carismatico di Gesù di Nazareth e si sarebbe presto dissolto qualora lo avessero prematuramente preso e messo a morte. Lo sapeva anche lui. E infatti cominciò a prendere qualche precauzione in più. Non appena le folle accorrenti diventavano troppo numerose, si sottraeva ad esse, spariva, magari per poi riapparire miracolosamente dove uno meno se l'aspettava, e si formavano addirittura leggende su questo suo comportamento. Accadde, ad esempio, un giorno che Pietro e altri tre stavano in barca in mezzo al lago. Andavano a vedere se trovavano un po' di pesce per la cena e d'un tratto videro il rabbi venire a piedi verso di loro, camminando sopra la superficie dell'acqua come su di un prato. E Pietro, che volle provare anche lui, per poco non affogò e in più si prese un rabbuffo, perché era proprio a causa della sua scarsa fede che non gli riusciva di starsene in aria o di camminare sull'acqua. Anche la qualità e il numero dei prodigi venivano dosati con più saggezza, e così i discorsi e gli insegnamenti che frequentemente venivano fatti per parabole. Egli doveva essere anche del parere che un'eccessiva popolarità non gli conveniva in quel momento. E infatti, quando Pietro, a nome di tutti, proclamò che per noi egli era l'unto proveniente da Dio, severamente ci ordinò di non dire niente a nessuno. Forse fu a causa del crescente interesse di Erode per la sua persona che si decise a cercare amicizie anche al di fuori della Galilea, coi samaritani. Poco curandosi della disapprovazione dei ben pensanti, teneva atteggiamento cordiale e si recò a compiere prodigi anche in territorio sirofenicio e oltre il Giordano, in territorio della Decapoli. Compì un prodigio non straordinario, ma con straordinaria accortezza. C'era grande folla intorno a noi quel giorno e gli portarono un sordomuto. I sordomuti, di solito, egli li guariva con estrema facilità, e così fece anche questa volta, ma non volle farlo davanti a tutti. Lo condusse in disparte e dicendo «Effata», gli ridiede parola e udito. E poi così, guarito, lo ricondusse dove stavano tutti e ordinò loro di non parlare di quella guarigione, ma sapeva bene che più gli raccomandava di star zitti e più quelli andavano a raccontarlo in giro. Comunque era buona propaganda in quel paese abitato prevalentemente da gentili. E venne il tempo in cui decise di servirsi anche di noi, i 12, per aumentare il suo potere. Ciò accadde piuttosto stranamente. Ci convocò per darci gli ordini e ci parlò in tono di tenerezza e malinconia, come avesse l'animo pieno di presentimenti poco lieti e forse anche corta fiducia sul buon esito delle cose che ci mandava a fare. Cominciò col dire: «Voi siete amici miei e fate quel che vi comando. Non vi chiamo servi, perché il servo ignora quel che fa il suo signore, ma vi chiamo amici, perché tutto ciò che ho udito presso il Padre mio ve lo faccio conoscere. Voi non avete scelto me, ma io ho scelto voi. Come sempre ero tenuto fuori e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. Qualsiasi cosa chiederete al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Il mio ordine è questo: che vi amate gli uni gli altri». Fece una pausa e poi ci diede istruzioni particolareggiate. «Ora vi manderò tra le genti. Non prendete nulla per il viaggio, al massimo un bastone, niente pane né bisaccia né denaro nel cinturone. Sandali sì, ma non due tuniche. Quando entrerete in una casa ospitale, fermatevi lì fino al momento della partenza. Ma se in qualche posto non vi accolgono e non vi ascoltano, andatevene subito di lì scuotendo la polvere dai piedi, per testimonianza contro di loro. Non recatevi in territorio pagano. Non entrate nella città dei Samaritani. Andate piuttosto dalle pecore perdute del popolo di Israele. Lungo il percorso, proclamate che il regno di Dio sta arrivando e guarite i malati. Vi do autorità sopra gli spiriti immondi. Fece un'altra pausa più lunga, quindi concluse: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Perciò siate cauti come i serpenti e schietti come le colombe. Cominciò a congedarci a due, Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e l'esatore Matteo, Giacomo d'Alfeo e Taddeo. Eravamo rimasti Simone lo Zelota ed io. Simone disse: «Rabbi, io non oso fare guarigioni, concedimi di andare a Gerusalemme». Io dissi: «Concedilo anche a me». Meditò un attimo e disse: «Il Padre sia con voi». Sciolsi dal cinturone la borsa che conteneva il mio denaro e andai a deporla ai suoi piedi. Egli disse: «Sappiate che i giudei mi cercano per uccidermi e anche i miei discepoli saranno perseguitati per causa mia». Marco Foschi ha letto La Gloria di Giuseppe Berto. Tutte le puntate sul sito e sull'app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.